la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Giuseppe è un ragazzo magro, sfuggente, a volte spigoloso. Per gioco fa il clown, per amore cammina verso le vette. È lì che va Giuseppe Cederna quando sente di avere fatto il pieno. Va verso la montagna e camminando ritrova un ritmo buono. La montagna è nella storia di Giuseppe Cederna un luogo incantato, il posto della memoria. Un amore che si trasforma in impegno anche sul lavoro. In un documentario, credo importante, che si chiama 100 chili meno, realizzato da Emanuele Caruso, che è un viaggio on the road in Italia, sul mondo dei rifiuti in Italia, come vengono trattati, quali sono i paesi più, insomma, più bravi a gestirlo, quelli meno, come, che cosa si può fare per consumare meno rifiuti e quindi ad essere delle persone un po' più civili. In questo grande viaggio c'è anche un pezzettino di fiction, cioè di un piccolo microfilmetto in cui ci sono anche io che interpreto un personaggio, insomma che interpreto un padre un po' distratto, stanco, oberato, che impara da sua figlia come si fa a fare la raccolta differenziata. Diciamo è un piccolo film semiserio che mi sono molto divertito a girare in quel di Alba e sono, insomma, abbastanza fiero di partecipare a questo film, perché poi, insomma, come persona, come cittadino, mi sembra, insomma, che occuparsi dei nostri rifiuti sia molto in qualche modo legato a come ci occupiamo di noi stessi, anche se non sembra. Lei è anche fuori, diciamo, dai set e dal palco una persona molto legata alla natura, non è un caso che si descriva anche come alpinista e sia alpinista, e questo probabilmente la lega in maniera molto forte, no, all'ambiente che la circonda. Beh sì, diciamo che alpinista è una parola grossa, diciamo che amo le montagne, sono mezzo valtellinese pur essendo nato a Roma, sono molto fiero di avere un bisnonno che è stato fondatore del club alpino lombardo, nonché esploratore di montagne. Probabilmente da lui ho preso il gene del camminare e dell'andare in montagna. Grazie appunto a questo, alla montagna, diciamo che è un luogo dove mi sento particolarmente bene, ma dove anche in qualche modo attraverso questo amore sono riuscito a trasformarlo in una passione lavoro, nel senso che da quasi 15 anni ormai scrivo di avventure nella parte del mondo, avventure a piedi, soprattutto avventure lente, scrivo di Mediterraneo, perché anche quello, la fortuna di aver partecipato ad un film, mi ha fatto venire fuori il famoso mal di Grecia, per cui vado in Grecia, in Africa, in India e spesso dovunque vado cammino, quindi il rapporto con la natura anche nel mio lavoro, spesso nei miei racconti teatrali, soprattutto teatrali, nei miei racconti teatrali là il camminare, quello che si comprende di se stessi viaggiando e camminando, stando in ascolto in un bosco o in un mercato dell'Oriente, insomma, è qualcosa che ci aiuta ad essere migliori e a stare meglio. Insomma. Quindi questo è un po' quello che cerco di fare un po' sia nel lavoro che nella vita. Figlio del giornalista, ambientalista e politico italiano Antonio Cederna, nipote della scrittrice e giornalista Camilla Cederna, Giuseppe esordisce come attore nell'82 con Cercasi Gesù. Ma è la presenza nei film diretti da Gabriele Salvatores a consacrarlo al grande pubblico. In Mediterraneo è il soldato Antonio Farina, follemente innamorato di una prostituta che poi sposerà. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa vuoi? Cos'è? Cosa c'è? Che c'è? Cos'è che vuoi che c'è? Andiamo, ci stanno aspettando, un salto fuori dell'olive e andiamo, dai! Io non vengo. Questa è la mia casa, io sono sposato, rimango qui io. Come rimani qui? Questi qua non ci aspettano, sono inglesi. Sei sposato, ma questo matrimonio in Italia non vale. Muoviti, andiamo via! Per me vale, vale moltissimo, moltissimo. Vabbè, allora porta anche lei, ma andiamo, non ci aspettano! Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo. Perché dovrei partire? No! Torino sta cambiando tutto. C'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero. C'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci. Te lo prometto. Ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola? Lo hai detto anche tu. Ti ricordi? Si sono dimenticati di noi, ecco, io voglio dimenticarmi di loro. Quello che noi ci immaginiamo, noi spettatori, no? Vedendo tutto il gruppo di amici che ha ruotato attorno ai film di Salvatores, ci immaginiamo che poi queste siano amicizie che continuano anche fuori. Cioè, voi che tipo di vita avete? Vi vedete spesso con gli altri interpreti, non so, di Marrakesh, di Mediterraneo? Guarda, purtroppo per come è la vita, come si diceva una volta, il cinema unisce, la vita divide, nel senso che per due mesi, un mese e mezzo, se sei fortunato, in questi film siamo stati fortunati, per due mesi sei sempre, dormi insieme, ti svegli insieme, lavori, litighi, ridi facendo un personaggio, ma soprattutto anche essendo una persona normale. Poi invece le strade, purtroppo, per fortuna, comunque si separano e ognuno fa la sua vita, ma devo dire che grazie a quei film, e questa è una cosa rara che succede, grazie a quei film un affetto profondo rimane, anche se ti vedi dopo un anno, dopo due anni, quella complicità, quei film che poi sono stati anche dei viaggi insieme, per dire, sono molto diverso da Batantuono, ci vediamo molto poco, ma le volte in cui ci siamo rivisti, l'anno scorso, è successo anche di dover fare qualcosa insieme. Beh, io ho provato un affetto, una simpatia e un rinnamoramento completo, tale, come se non fosse passato neanche molto, come se fossimo proprio dei veri amici. E questo devo dire che è una sensazione molto bella. Quindi il gruppo c'era facendo i film, poi si è separato, forse si è anche rotto, comunque ognuno fa le sue cose, però poi quando ci si incontra in qualcosa ci si riconosce. Se penso a un giorno, un momento, ritrovo soltanto malinconia. È tutto un incubo oscuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città vecchia bambina. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Cederna nasce a Roma in una giornata di giugno del 57. A casa, nel suo salotto, girano i nomi di Camilla Cederna, la zia, famosa giornalista. E forse è anche per tanta serietà respirata in casa che Giuseppe decide di fare il mimo, il clown. Leggero e ironico, trova la sua strada. Gli esordi della mia carriera di teatrante, insomma, di teatrante, sono stato un salto in banco, sono molto fiero anche di esserlo. Io ho debuttato nel 1977, pensate, a Piazza Navona con il mio compagno di avventure clownesche Memo Dini, eravamo dei clown moderni, poi abbiamo fatto un gruppo, quindi dal 77 in poi fino al quasi metà, fine degli anni 80, diciamo, avevo una mia compagnia che si chiamava gli Anfe Clown, appunto con altri importanti complici di teatro. Poi piano piano c'è stato invece il teatro più grande con altre persone, finalmente molto bello, con un regista finalmente che era Gabriele Salvatores, Sogno di una notte d'estate a Milano, forse un musical con le musiche di Mauro Pagani, con tantissimi attori tra cui Claudio Bisio, Barbareschi, insomma uno spettacolo che ha girato per più di 180 repliche in tutta Italia. Poi mi aveva visto bell'occhio, gli ero sembrato abbastanza buffo e strano, e con lui ho avuto la grande fortuna di lavorare accanto a Mastroianni in un film che si chiama Enrico IV, appunto, di Bellocchio con Mastroianni e Cardinale. Poi una delle pietre miliari, invece, prima di Marrakesh Express, di Mediterraneo, in cui uno fa finalmente una parte interpreto una parte in cui anche altre persone, sì, una parte di persona normale, che è quello che ho sempre voluto fare, invece una piccola parte anormale, di cui però sono molto contento di aver fatto, è stata Fracchia contro Dracula. Ecco, ma va, non me lo ricordavo. Questo ci tengo molto, ero Igor, anzi Igor, che aveva le braccia nella minestra con Fantozzi, insomma quello è stato, devo dire, sì, Fracchia contro Dracula è una pietra miliare della mia carriera. Lei è una persona estremamente ironica, autoironica, si sente anche insomma dalle cose che dice, da come le dice, è una persona lieve, si prende con leggerezza, no? Anche quando parla di ambiente riesce a coinvolgere senza appesantire. Questo suo modo di essere in qualche modo l'ha aiutata anche a stare in piedi nel mondo del cinema, nel mondo in questo modo? Sì, devo dire assolutamente, perché lavorare insomma come attore, poi io sono un po' indipendente, per cui riesco a fare un po' quello che mi piace, ma poi questo a scapito anche del fatto che poi sono un po' particolare, per cui non è che ci siano così tante parti e che faccia tantissimo cinema o televisione, e io ho sempre la speranza poi di farle, poi le cose quando non sei troppo stressato arrivano, però devo dire che appunto scrivere, viaggiare, leggere, usare della scrittura e del viaggio, appunto tutto quello, avere questa valvola di sfogo mi ha aiutato moltissimo. Poi per rispondere alla sua domanda, sull'ironia è fondamentale, perché appunto è un lavoro molto difficile, molto duro, in cui bisogna assolutamente essere autoironici e cercare di, se no si muore. Per esempio io 3 o 4 anni fa ho partecipato a un film hollywoodiano con le più grandi star del mondo, le più belle donne del mondo, le più famose, da Penelope Cruz a Nicole Kidman, e partecipavo con una parte piccolissima, non contavo niente, sapevo che quel poco che dovevo fare dovevo farlo bene, ma sapevo di essere l'ultima delle ultime ruote del carro. Quella esperienza, che di cui non mi sarebbe rimasto niente dal punto di vista professionale, è diventata un libro che si chiama Piano Americano, edizioni Feltrinelli, in cui ho raccontato appunto come si sopravvive in un mondo dove tutto è vero e tutto è falso, dove se cerchi di osservare, di guardare come se fosse un viaggio, puoi anche lì scoprire il mistero della vita. Ecco, in quel libro lì ci sono delle scene che neanche a Peter Sellers sono capitate in Hollywood, parli. Si ride molto, si ride su un attore e sulla ha fatto questa strana cosa che uno pensa che uno è famoso, allora è arrivato, non è vero niente. Ogni volta ci si deve inventare. Si spera che ci sia qualcuno che ti dica: ma guarda, torna sulla terra se sei troppo in alto, oppure ascolta gli altri, non guardare solo a te stesso. Insomma, questa è una lezione molto importante per tutti, eh. La famiglia di Giuseppe, le radici di Giuseppe Cederna, restano però forti nel ragazzo, che nel frattempo è diventato un attore conosciuto dal grande pubblico. Sarà però solo nel 2004, in quelli che vengono definiti dallo stesso Cederna gli anni della maturità, che la storia familiare tornerà nella vita di Giuseppe e la zia Camilla giocherà un buon ruolo, non tanto sulla carriera di attore quanto su quella di scrittore. La sorella di mio padre, Camilla, aveva scritto, curato un libro sulla preparazione e sulle riprese di 8:30 di Fellini. 8:30 non è possibile. E scopro che mia zia era amica, amicissima di Fellini, perché Fellini insomma a Fellini Camilla Cederna piaceva, probabilmente perché era una donna intelligente, spiritosa, con gli occhi brillanti, insomma soprattutto la usava come psicanalista. Lui non sapeva ancora bene la storia di 8:30, ma aveva bisogno di parlare con qualcuno, di qualcuno che ascoltasse e che in qualche modo lo aiutasse a capire meglio. E così questa mi sembrava una coincidenza straordinaria, per cui in qualche modo ho fatto apparire anche mia zia in questo viaggio, e soprattutto mi è servito a fare un piccolo cortocircuito, perché io avevo incontrato Fellini una volta, tanti tanti anni fa. Fellini mi aveva voluto vedere per l'intervista e sono andato a trovarlo nel suo studio a Cinecittà. Avevo intimidito, però lui, sapevo che conosceva mia zia naturalmente, però non ne abbiamo neanche parlato. Mi ha guardato e mi ha detto: ah, sei un bel personaggetto, sì, e sghignazzava guardandomi con quella faccia da gatto mammone che aveva. Poi ha cominciato a picchiettare, mi ha chiesto se mi sarei tagliato i capelli, E io ho detto sì, ma certo che me ne taglio, perché avevo una lunga coda di cavallo. Mannaggia. Avevo una lunga coda di cavallo, insomma, ho detto sì, certo che me ne taglio, maestro. E va bene, ti faccio sapere. Io sono uscito da quell'incontro sapendo che non ero io quel personaggio di Fellini, ma 30 anni dopo ho pensato che lui sghignazzava, rideva con una certa compassione, complice, perché, insomma, perché aveva visto il nipote di questa signorina con cui lui andava in giro, di questa giornalista, che era Camilla, che in qualche modo cominciava a fare cinema, insomma, aveva scelto questa carriera dura, difficile, molto dura, molto difficile, molto piena di trabocchetti, che stava per avventurarsi in questa terra pericolosissima del cinema, e ha detto: beh, insomma, buona fortuna a te, in questo film non ti prendo, ma vedrai che succederà qualcosa prima o poi. E questo qualcosa prima o poi è successo, perché in qualche modo, comunque, con la mia piccola parte, con Fausto, non solo ho partecipato, per quello non sarebbe stato niente, ho partecipato a un film tratto da un'opera di Fellini, ma la cosa più importante è che ne ho scritto una storia, e questa storia non è una storia generica, è la mia storia. E quindi, in qualche modo, il maestro Fellini, Federico Fellini, per fare un piacere a mia zia, in qualche modo a me, credo che mi abbia regalato un film tutto mio, che si chiama Piano Americano, e che è veramente un regalo. A volte, vedi, ci sono delle cose per cui la scrittura fa rivivere i morti, e in qualche modo, dal mondo dei morti, che è molto più vicino di quello che pensiamo al nostro, arrivano dei regali sotto forma di storie, di avventure, di parole che diventano qualcos'altro. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano. Tra un set e l'altro, Cederna cresce e, scrivendo libri bellissimi, ritorna in qualche modo a casa. Sempre per sempre tu, ricordati dovunque sei. Se mi cercherai. La prima volta termina qui. Grazie per averci seguito. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ci potete riascoltare in podcast. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. A domenica prossima, sempre attorno alle 13. Ho visto gente andare, perdersi e tornare. E perdersi ancora. E tendere la mano. Mani vuote e con le stesse scarpe camminare per diverse strade.